dice Gabriele. Non può cannuda! Gabriele, rompi tutto, ti autorizzo io. Buongiorno Natale. Ciao Antù, buongiorno. Allora, devo stare attento a chi ti esamina. Vieni qua Gabriele, aspetta un attimo. Di Rumanzenghia. Appa. Allora, questa volta me la prima, come ha pugliato un marsupio. Ah, non toccare l'apparecchio. Non si tocca, Gabriele, che pericoloso. Se non sculaccioni, zio, mi. Domani da Giussi a Olbia fa una dacca, insomma, mamma mia. E cosa vuoi? Ci sono una massa di non ci sono definizioni, non ci sono, perché si poteva risolvere anche qua il problema. Oia, vieni menina, sono dovuto andare a farmi l'esame di Lusangua, rimani. Meno male mi hanno dato l'esito via internet, così se non avevo quello saltava pure l'attacco. Molla questa cosa. È una scena. Cosa vuoi fare? Purtroppo qua. Per carità qua. Ovvia. No, bisogna andare a più di 100 km a farsi le cose, perché non c'è più nulla a Sassari. Ovvia. A ogni cosa che chiedi dicono che non c'hanno posti. Quando ti rispondi nei burumi, se no ti casi nei tempi di sendi che gli operatori sono occupati. Approva più taglio. Cazzo di amore. E quelli che ti danno ti dice, allora come fai chi? Se no ti arrangi. Ah, ma è un mondo di gente che, per carità, no? non c'è distinzione. E fini miniera, da poi a mezzodì a giocare in Chivi, 4 ore devi fare digiuno, e io dico arrivo a pezzi in Chivi, mamma mia, sono tutto a dolori, ma la mia compagna non è che vado da solo. Sai che mi squillava a finire il telefono? Ehi. Eccomi qua. Eia. Sono da una... sono un piedi che non lo vengo, oggi me lo porto a mangiare. A Gabriele, lo porto con me. Fanno il pranzo lì al circolo e lo porto lì, che gente come si deve, gente tranquilla, capito? Ok. Quando lo porto a mangiare con me, con papà lo portiamo. Negava che guarda è nata la motoretta. Marcolino Condor non l'hai sentito? Negativo. Sarà drumizzo in coma, sarà profondo, ma ancora. Ah, quasi più tardi già. Devo uscire. Se si trova dentro, più tardi si fa sentire. E dice che doveva uscire oggi. Ma vediamo un po'. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi al limite, che sono a pezzi, sono. Già avessi pronto di qua la 48. Ma va, ruggiamo. Pronto? attenzione Maccolino Condo, ACC. Attento Maccolino Condo, ACC. Luca, non sei andato ad abbronzarti le chiappe chiare? Sì, è bello, Videolina in diretta. Papa Rogero, niente, stavo arrostendo io. Ciao. Alla prossima settimana. Al prossimo anno, una settimana. Al prossimo anno. No, stavo cercando di fare qualche collegamento in USB, ma non c'è una buona propagazione. Non lo so, io so. Si aspettava che qualcuno si prenda questa antenna, così ne avevo la verticale, la Grazioli. E cosa fai? Ci metti una delle tue? No, assolutamente no. E per provare su milioni di dita, nulla, lascia lì fuori 40 metri, tanto io sono sempre in ascolto lì, 40, 20, non me la fatti nulla, non ho più nessuno in ombra, perché da me che si chiede. Bisogna andare giù a comodizzare i punti a carico più comodo, chiudo tutto nella bussola e mano giù, tanto raggio compreso l'antifa e non. Vabbè, se tutti parliamo così allora è logico che la frequenza si chiude, no, ma ieri sera già c'era qualcuno, dai, c'erano 4 o 5 persone. Non per molto tempo, però già c'erano. Non lo so, già li ascolto, ma te l'ho detto. determinate persone rispondono e chiamano solo a chi vogliono loro. Tu rispondi e non ti zecca, non ti rispondi. E allora, per me, può anche chiudere questa serie. Sì, vabbè, scusa, quella sera fottimo, facciano quello che vogliono, tanto, per quello che mi interessa, anche a me non è che, quando io voglio, se c'è qualcuno parlo, se no, non ho perso nulla, non ho perso proprio niente. Ma ho notato che lo fanno anche con te. Ho notato perché io lo sai, no? Ascolto da una parte e dall'altra. Ti sento chiamare determinata persona e via. Però se entra anche tu mi rispondi subito. Ma magari dai. No, vabbè, io che chiamo a divorzio, comunque ho visto che quando c'era qualcuno già mi hanno risposto. Per cui non è. Comunque non me la prendi lui, se poi non volevo rispondere, che se ne frega. Per me va bene lo stesso, non perdo niente, non ci guadagno niente e non voglio guadagnarci niente e nemmeno perdere niente. Infatti io già non peggio nulla, io già sono sempre in acqua su altre basi, tipo immaginate che mi interessa a me, capito? No, dopo si lamentano però, non entra nessuno, no, già niente, già entra, ma se tu rispondi alla cappia già a tempo. Oh via, meno male, mi ho già visto le registrazioni alla radio, anche stamattina, già non fuggi nulla, non ti preoccupare, se Bonini non è vero, ti rabbongo in diretta, ma manco ti gagli un mondo, dai, vo giù, lasciamo perdere, sagite che questa è sempre in fase di registrazione la radio. Ehi, vabbè, grazie, che te la frega, lascia fare come vogliono fare, no? Non è un problema, figurati. Oggi tanto che a pranzo mangio ravioli e gamberoni, per cui già va bene così, no, non c'è problema. E poi polpettone anche, tanto bacciamba. Poi mi mangio una bella lancia di quelle grandi, proprio bella, di lusso, e sto bene sino a stanotte alla cena. Ma io ci avevo pancetta e pancetta, buona, e capocollo. Ehi, andavi, qual è il problema? Non ce ne sono problemi. Di lusso, oggi sono battuto a manetta, 10 watt, farò poco da anni. 10 watt, boh, non so di preciso quanti, ma comunque, diciamo che sono 10 watt oggi. Saluta, ci ho mandato 4 video. Il primo alle 11.54 e non ne avevi ancora manco uno. Pensa tu. Ehi, ero con un tablet, ero leggendo il giornale con il tablet. Dopo le guardo, che problemi ci sono. Ehi, non c'è fretta, tanto siamo qua. Allora bisogna che mandare in un tablet per il video burro, che tanto pare se abbia con un tablet e con un telefono. Ma bisogna vedere se il tablet che mi manda si arriva in io. Ma che la giù lui è un tablet. Alle volte sono con quello normale che ho da tempo, ne ho un altro nuovo e alle volte sto usando quello, oppure sono su YouTube e col computer, anche quello, no, è un problema. Faccio a giro. Bravo, va bene, dai. Lascio ascoltare quel REM agli altri che sono in ascolto. Ciao Giù, ciao la prossima settimana. Ok, ciao, luna meno 5, adesso fa un po' si pranza e ciccia e va bene così. Ciao.